24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la nostra intervista esclusiva con l'autore del rapporto sulla tassazione nel vecchio continente, che riserva importanti sorprese, soprattutto per l'Italia. Bruxelles si prepara al vertice straordinario di mercoledì sera, mentre la Commissione pensa agli Eurobond, ma ammette è una decisione politica. L'Europa contro Google, accusata di posizione dominante. Infine andiamo a Cannes per il Festival del Cinema. Italia in testa in Europa per la pressione fiscale sul lavoro, l'ennesima conferma giunge da Eurostat. Nel 2010 il peso implicito, ovvero tasse più oneri sociali dello Stato sul costo del lavoro, è salito dal 42,3% del 2009 al 42,6%. Nei 17 paesi dell'Eurozona il tasso medio è stato del 34%. Quest'anno il peso del fisco sulle spalle degli italiani, persone fisiche, è destinato a crescere di quasi 2 punti percentuali, passando dal 45,6% al 47,3%. A 24 ore in Europa parla l'autore del rapporto della Commissione europea, Marco Fantini. Sentiamo. Le tendenze più importanti che abbiamo riscontrato sono intanto un generale aumento della tassazione in Europa. Vediamo che fino all'anno scorso avevamo riscontrato un aumento concentrato soprattutto sull'IVA e sulle accise, mentre l'imposizione sul lavoro e sulle società tendeva tutto sommato a non aumentare o addirittura in qualche caso a diminuire. Invece in questo rapporto constatiamo che l'aumento delle aliquote comincia a estendersi. A quanto ammonta la tassazione media in Europa? Il rapporto tra imposte e contributi sociali e il PIL ammonta al 38,4% per quello che riguarda la media europea nel 2010. Per l'Italia invece siamo al di sopra della media, al 42,3%. L'Italia resta uno dei paesi col maggior carico fiscale. L'Italia è il paese con il maggior carico fiscale sul lavoro. Il presidente francese François Hollande riceverà mercoledì all'Eliseo il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy, subito prima del vertice informale dell'Unione che si svolgerà in serata a Bruxelles. E non c'è un veto francese su Wolfgang Schäuble alla guida dell'Eurogruppo, a riferirlo a Berlino il ministro delle finanze francese Pierre Moscovici, replicando a un articolo di Der Spiegel. La Commissione europea ritiene che gli Eurobond siano un asset importante ed economicamente valido nel quadro delle misure destinate a essere messe in campo per rispondere alla crisi, ma si tratta di prendere una decisione adesso che è essenzialmente politica. Lo spettro di una fuga dei depositi si abbatte sulle banche dell'Europa, dove si teme che le file agli sportelli bancari dei clienti per ritirare risparmi, come già accaduto in Grecia, possa ripetersi pure in altri paesi della periferia dell'Eurozona. A riportarlo è il Wall Street Journal, sottolineando che a fronte di questo rischio alcuni paesi stanno considerando l'introduzione di un piano paneuropeo di garanzie sui depositi. La maggioranza dei greci continua a volere la permanenza del paese ellenico nell'euro, anche se ciò potrebbe significare ulteriori sacrifici. A rivelarlo un sondaggio pubblicato dal settimanale Real News, il 52,2% dei greci si dice a favore dell'euro, contro il 28,8% che chiede una radicale revisione dell'accordo con l'Unione. E la crisi sui debiti della Grecia costerà almeno altri 60 miliardi di euro ai contribuenti europei, secondo gli analisti di UBS. Ma si tratta dello scenario più ottimistico tra quelli elaborati. Se Atene infatti dovesse uscire dalla moneta unica, allora i costi sarebbero di almeno 4 volte tanto, 225 miliardi di euro. Le Camere di Commercio europee chiedono ai leader dell'Unione un maggiore accesso al credito e mettono sul tavolo il problema della mancanza di personale specializzato. Ora i mercati, borse europee positive grazie all'apertura in rialzo di Wall Street e all'impegno del leader del G8 a mantenere la Grecia nell'area euro. Parigi e Francoforte hanno chiuso la seduta rispettivamente con un più 0,8% e con un più 1,1%, mentre Milano, dove lo stacco delle cedole di ben 24 società ha pesato per 1,8% sul FTSE MIB, ha ceduto lo 0,28%. Borse europee positive grazie all'apertura in rialzo di Wall Street e all'impegno dei leader del G8 a mantenere la Grecia nell'area euro. Così ieri Parigi e Francoforte hanno chiuso la seduta in rialzo rispettivamente dello 0,6% e dello 0,9%, Londra ha fatto più 0,7%, mentre Milano, dove lo stacco cedole di ben 24 società ha pesato per l'1,8%, ha ceduto solo lo 0,28%. Tra le blue chip di Piazza Affari, autentico boom delle popolari, dopo che della Banca d'Italia ha autorizzato il Banco Popolare ad adottare i propri modelli interni per la misurazione del rischio. Ciò allinea l'Istituto Veronese, che in borsa ha festeggiato guadagnando il 19%, alle richieste dell'EBA. Lo stesso vale per UbiBanca, più 9%, e BPM, più 8,3%. Volano anche le Fiat, più 8,7%, grazie alle promozioni degli analisti, alle buone performance del comparto auto europeo e al possibile ritorno degli incentivi. Acquisti anche su Impregilo, più 7,6%, sulle indiscrezioni, poi smentite, di un extra dividendo. Realizzi invece sul settore energetico, a partire da Snam, meno 1,4%, per la quale si avvicina la separazione proprietaria da Eni. Sul resto del listino ancora in calo la Juventus, meno 7%, che ieri ha perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli dopo aver conquistato comunque lo scudetto. Ciò Condina da Radio Cor per Radio 24 e Sole 24 Ore. Balzo in avanti per la produzione nel settore delle costruzioni in Europa. A marzo l'Eurozona ha registrato un incremento del 12,4%. L'Unione Europea incoraggia con forza il neoeletto presidente della Serbia, Tomislav Nikolic, a fare progressi nella direzione dell'integrazione comunitaria. Il messaggio arriva dal presidente europeo Herman Van Rompuy e dal presidente della Commissione, Josep Barroso. Sempre dall'Unione Europea, un ultimatum a Google. Serve una soluzione contro il rischio di posizione dominante. La risposta di Google è: non siamo d'accordo. Sentiamo. Una vera spada di Damocle pende sulla testa di Google ed è l'ultimatum lanciato dall'Unione Europea al colosso di Mountain View. In una lettera inviata al gruppo, il commissario europeo alla concorrenza Almunia ha dato forma a tutte le sue preoccupazioni sul possibile abuso di posizione dominante. L'Unione Europea ha dato a Google qualche settimana di tempo per pensare a misure che limitino il rischio, ma la risposta di Google è stata rapida. Siamo aperti al dialogo, fanno sapere, ma non siamo d'accordo. La competizione sul web è cresciuta molto e Google si deve confrontare con pressioni sempre più grandi. Sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione Europea, le attività svolte dal gigante USA, sia come motore di ricerca, sia come gestore della pubblicità. Già dal 2010 l'antitrust europeo aveva aperto un'inchiesta dopo 14 denunce per abuso di posizione dominante. Dunque, se Google presenterà soluzioni convincenti, allora la Commissione potrà chiudere l'indagine. In caso contrario, l'ultimatum prevede che sia l'Europa a procedere come crede contro il multimiliardario motore di ricerca. Doriana Leonardo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continuano a calare gli iscritti all'università in Italia. Si iscrive soltanto il 29% dei diciannovenni e sembrano ormai impossibili da raggiungere gli obiettivi europei, che vorrebbero laureati il 40% dei giovani tra i 30 e i 34 anni entro il 2020. Investimenti in istruzione di terzo livello. L'Italia è a fondo scala, investendo una quota molto modesta del proprio prodotto interno lordo. Dico, l'Italia spende per ogni laureato, compresi coloro che abbandonano, 100, la Spagna ne spende 180, la Germania ne spende 200, la Svezia ne spende 236. Insomma, noi, ripeto, spendiamo poco. E spendiamo poco anche per ricerca e sviluppo. Noi spendiamo complessivamente una quota di 1,26 del PIL, la Spagna ne spende 1,38, l'Irlanda ne spende 1,77, siamo a fondo scala anche in questo caso, perché dico, la Francia spende 2,21, la Germania 2,82, e l'esempio con riferimento alle imprese italiane e tedesche nel confronto, ecco, le spese, gli investimenti delle imprese italiane sono pari allo 0,67, quello delle imprese tedesche sono 1,92, quello della Danimarca sono 2,02, quello della Francia è 1,37. Insomma, dobbiamo deciderci che se non si investe su questo terreno rischiamo di restare ai margini dei processi di sviluppo, e questo naturalmente ci penalizza. Penalizza non solo il paese, ma penalizza i giovani. Sui 46 progetti finalisti del bando Eco Innovation dell'Unione Europea, 9 sono guidati o includono aziende italiane. È quanto emerge dalle prime anticipazioni sulla gara dell'edizione 2011. Ci spostiamo adesso a Cannes per il Festival del Cinema. È stato accolto con un applauso in sala la proiezione stampa di questa mattina di Voi non avete ancora visto niente, di Alain René, in concorso a questa 65esima edizione del Festival di Cannes. Applauso che si è trasformato poi in una vera standing ovation durante la conferenza stampa. Il quasi novantenne regista francese torna sulla Croisette dopo aver vinto il Gran Premio Speciale della Giuria nel 2009 con Gli Amori Folli. Ancora protagonista la sua musa, Sabine Azéma, e altri grandi del cinema francese, da Michel Piccoli a Pierre Arditi a Mathieu Amalric, per raccontare un teatrale Orfeo ed Euridice, trasposto ai giorni nostri, in cui finzione e realtà si sfalsano in continuazione. L'idea della morte aleggia costante, come vuole la pièce di Antoine Dantac, Euridice, su cui si basa la pellicola, inducendo a pensare a una sorta di opera testamento, idea che il regista ha smentito categoricamente, ribattendo: è pura energia. Contestato invece Like Someone in Love, in competizione, dell'iraniano Abbas Kiarostami. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.